Io con la radio ci sono nato, mi ricordo che ero piccolino quando misero la bomba proprio lì a Via dei Volci e mi svegliai nel cuore della notte, quindi per me la radio è l'esistenza stessa. Poi la radio fa parte del quartiere, è come se fosse una bottega di artigiani, anzi è una bottega di artigiani del pensiero, di intellettuali, di cazzeggiamenti, di informazioni, di cultura, di tantissime cose. Radio Onda Rossa è il quartiere, così come lo è anche il Cinema Palazzo, dove festeggeremo questi 40 anni. Io ne festeggerò l'anno prossimo 45, ne ho 5 in più, ma insomma sono sempre belle date tonde, 40, 45. Sono contento di fare questo compleanno, perché è un compleanno veramente sanlorenzino. Questa San Lorenzo che un po' si sta perdendo con la chiusura delle botteghe artigiane, con la chiusura degli spazi storici, però sta anche rinascendo attraverso nuove artigianalità. Speriamo che resti sempre questo spirito così pioniere, artigiano, artistico, culturale, e che non ci perdiamo appunto questo spirito anche un po' cazzone che ci fa divertire quando ci incontriamo per le strade del quartiere.